reportage. La cultura che vince in Europa. Viaggio tra i progetti di Europa Creativa, di Silvia Bernardi. 1,046 miliardi di euro da investire nella comunicazione, nello spettacolo e nelle arti audiovisive e cinematografiche. È il budget fino al 2020 di Europa Creativa, il programma europeo per la cultura. Europa Creativa è un programma quadro che finanzia progetti che devono promuovere sia la capacità del settore culturale e creativo di operare a livello transnazionale, sia la mobilità di opere e operatori culturali. Questo quello che scrive l'Europa. Ma chi sono i protagonisti dei programmi culturali europei? Quali sono i progetti culturali che negli anni hanno vinto i programmi di finanziamento? In sintesi, qual è la cultura che vince in Europa? Sono centinaia i progetti italiani che si sono candidati ad Europa Creativa e decine quelle che hanno vinto e ricevuto un finanziamento. Dietro ad ognuno persone che hanno storie da raccontare e che come denominatore comune hanno due punti saldi: un forte europeismo e la convinzione che la cultura sia la vera cifra distintiva dell'Unione Europea. Il nostro viaggio alla scoperta della cultura che vince in Europa comincia lungo le rive del Ticino. Siamo a Pavia, nelle sale del Collegio Ghislieri. Qui ha sede uno dei centri di produzione più attivi in Italia e in Europa nel campo della musica classica e barocca eseguita su strumenti d'epoca. Si chiama Ghislieri Musica e ha avuto tutte le caratteristiche che servono per rientrare in un bando di Europa Creativa e vincerlo, ottenendo così la possibilità e le risorse per arrivare ad essere oggi uno dei centri più accreditati di produzione e ricerca musicale di respiro europeo. Ce ne parla Giulio Prandi, il giovane direttore musicale del Collegio Ghislieri, giovane direttore d'orchestra. Come giovani sono tutti i protagonisti di questa storia che coniuga il meglio della cultura italiana con il meglio delle possibilità europee. Il Ghislieri di Pavia è un ente che compie 450 anni nel 2017 ed è un ente che fin da subito ha avuto la vocazione a sostenere lo sviluppo di giovani dotati ma con capacità economiche non elevate. Questa missione è andata avanti fino a oggi. A settembre abbiamo il prossimo concorso di ammissione a posti di alunno, che è un concorso nazionale. Ma negli ultimi 20 anni la missione del Collegio si è rinnovata. Si è rinnovata per diventare quella di un centro culturale che, oltre a sostenere lo sviluppo universitario dei giovani, svolge un'attività in varie discipline di alto livello, in modo da permettere anche l'incontro tra queste discipline, l'incontro tra le persone che vivono Pavia, vivono il Collegio, vivono l'università, con queste discipline di carattere diverso. La musica è una di queste. Da ormai 15 anni esiste Ghislieri Musica, che organizza una segna di concerti sul territorio, ha un ensemble residente e soprattutto, in linea con la vocazione del Ghislieri, sostiene la crescita e l'inserimento professionale di giovani artisti e giovani ensemble. Nel 2011 si è avviato un percorso magnifico con il Centro Brunet, centro culturale di incontro anch'esso, quindi non universitario ma vicino a noi come vocazione, e ci ha proposto di avviare in residenza dei progetti di sviluppo di giovani artisti. Questi giovani artisti selezionati in tutta Europa vengono al Ghislieri, studiano qui per un periodo, debuttano un concerto che poi a sua volta gira in Europa. L'anno scorso, nel 2014, con la nascita di Creative Europe, sempre il centro culturale di incontro di Ambroné ha lanciato l'idea di un progetto dal nome E-Emerging, European Ensembles Emerging, che fosse un accompagnamento strutturato e più efficace per i giovani ensemble emergenti. Cosa significa? Una singola struttura può dare una singola residenza o un singolo concerto a un giovane ensemble, ma per fare in modo che un ensemble possa essere sul mercato qualificato c'è bisogno di qualcosa di più ampio. Questo qualcosa di più ampio ce lo può dare una rete europea, un progetto che ha avuto la fortuna di essere accolto da Creative Europe e che ci permette di dare un accompagnamento artistico triennale con tutoraggi anche amministrativi, musicali e gestionali, perché anche questo serve per stare sul mercato, al termine del quale due ensemble dovrebbero essere pronti ad affrontare mercato europeo dopo aver girato per residenza e concerti per tutte le strutture partner, che sono molte in Europa, lungo 3 anni. 6 ensemble selezionati ogni anno, 4 passano al secondo e 2 al terzo. La commissione artistica è formata dai coorganizzatori, di cui Pavia è l'unico italiano. Si tratta di uno dei progetti che da programmatore dà in assoluto più soddisfazione per i suoi frutti a lungo termine. Ricerca, produzione e sviluppo di nuovi progetti, networking con altre organizzazioni musicali e diffusione della cultura musicale tra le nuove generazioni attraverso il loro diretto e attivo coinvolgimento. Sono questi gli aspetti su cui l'Europa investe, che si traducono concretamente in opportunità professionali per i giovani, come racconta Federico Rinaldi, project manager dell'associazione. Per la nostra attività l'Europa ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Innanzitutto, anche a livello personale, diciamo, per me è stata l'occasione per cominciare un lavoro, nel senso che una parte ingente dei miei compiti è proprio quello di sviluppare a livello europeo tutti i progetti che vengono elaborati qui al Ghislieri. Vengo da un Erasmus, quindi la concezione di proprio cittadinanza europea e di necessità di collaborare con le altre strutture che si occupano delle nostre attività è sempre stata fondamentale. E quasi una necessità, direi, sì, perché di fatto l'abbiamo sempre vissuta come uno spazio dove poter crescere, dove poter anche apprendere molto. Siamo molto attivi a livello di reti europee, infatti siamo entrati nel 2010 nella rete europea di musica antica, da poco siamo anche membri della European Festivals Association e siamo stati insigniti dell'etichetta F, Europe for Festivals, Festivals for Europe, che appunto testimonia tutta l'importanza e il valore che noi diamo a questo lavoro sul continente e sui nostri partner europei. Per quanto riguarda il nostro progetto finanziato da Creative Europe, l'incontro con Ambroné, come diceva prima il mio collega, è stato fondamentale. Ci siamo trovati subito sulla stessa linea d'onda, infatti abbiamo cominciato a collaborare a livello magari un po' meno strutturato dal 2011, dopodiché con l'inizio di questo progetto europeo l'anno scorso abbiamo allargato la nostra collaborazione ad altri 7 partner e in più ci sono altri 37 partner, possiamo chiamarli di secondo livello, che sostengono le nostre attività attraverso inviti per i concerti, ospitalità di attività di training su vari soggetti, comunicazione, management, insomma tutte quelle cose che solitamente durante le formazioni più musicali strettamente a livello di esecuzione diciamo non vengono molto affrontate. Altro protagonista di questa storia europea è la musica. Il Dixit Dominus di Handel e le voci del coro Ghislieri. Handel è un compositore sassone. L'opera è stata scritta per Roma, eseguita da un gruppo italiano in un festival francese, registrato live da Radio Francia. Anche questa è Europa. Il nostro ensemble in residenza, Ghislieri Choir and Consort, è in realtà il progetto da cui tutto è partito, che è un ensemble fondato da me e dai miei colleghi Alberto Guerrero, Maria Cecilia Farina, Marco Bianchi, Alberto Stevanin, insomma musicisti del territorio, ma anche giovanissimi cantori che ci sono fin dall'inizio, come Valentina Gentieri e tanti altri, intorno a un sogno, quello di riscoprire il repertorio sacro italiano del XVIII secolo, che è un repertorio magnifico che state ascoltando in sottofondo e che ancora non è stato esplorato come lo sono stati invece l'opera del Settecento e il concerto strumentale. Anche questo lavoro, tuttavia, ha avuto fin da subito una vocazione molto europea, perché noi abbiamo scoperto che sempre più il mercato concertistico europeo è interessato a questo repertorio sconosciuto italiano. Noi all'inizio eravamo sicuri che saremmo andati in tournée soltanto con piccoli progetti dai budget limitati e con autori famosi, e invece abbiamo tournée con musiche di Ommelli, di Davide Perez, con grandi organici vocali e strumentali che sono una parte del lavoro del mio collega il dottor Rinaldi che parlava prima, perché in realtà una peculiarità culturale italiana interessa molto al mercato europeo, ed ecco che si evidenzia ancora una volta anche in questo caso come in realtà le divisioni in Europa siano molto meno nello spirito che non le condivisioni. Noi abbiamo spesso repertori specifici francesi o tedeschi, così come il repertorio italiano, anche quando non è conosciuto, è molto amato all'estero. Nella musica antica, ma credo anche negli altri generi, questo è un fenomeno ben conosciuto, e ci è capitato di avere proprio ad Ambronée o a Göttingen o a Royaumont o a Utrecht basiliche con 1000 persone, 1500 persone in piedi dall'entusiasmo per opere italiane, così come da noi applaudiamo Bach o autori meno conosciuti francesi e tedeschi. Questa è una cosa che noi sperimentiamo tutti i giorni, siamo profondamente italiani, ma il nostro ambito di lavoro è realmente europeo, ed è normale per noi mandare mail in 3 lingue, fare telefonate in 2 lingue ogni giorno. Credo che questo sia un confronto e un arricchimento straordinario. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.